24 mattino. 8, 19 minuti, 35 secondi. Il momento che attendevate è giunto. Di fronte a me, con un maglione grigio e una mise sobria, ma per questo borghese ed elegante, c'è Oscar Giannino. Io qualche volta mi vendico e dico ai nostri ascoltatori che tu sei in realtà in costume da bagno la mattina. Ma sto non scherzando, è vero. È ovvio che non è vero. Sei un criminale. Fratello, dai su, sono un criminale io. A proposito di criminali, posso dirti una cosa? È morto per tanti anni il 41 bis Riina. Ha espiato in terra, speriamo che abbia pensato a qualche cosa per il suo futuro, che sia stato capace di qualche pentimento almeno tra sé e sé. Analisi, letture stanno iniziando a popolare ovviamente i giornali online che oggi dimostrano il loro valore, l'apertura del Corriere, l'apertura di Repubblica.it. C'è un'analisi di Tano Grasso su Tiscali che dice adesso c'è un pericolo in più perché la lotta per la successione può aprire un vuoto di potere, di guida all'interno della mafia. Questo è interessante, sicuramente un rischio che corriamo, speriamo non sia grave perché mi fido della nostra intelligence. E da poi, dove vogliamo partire, e Oscar? Poi fammi dire una cosa, c'è sempre il grande punto interrogativo, dov'è, cos'è, cosa fa, è lui che comanda il mitico Matteo Messina Denaro? Certo, questa è la grande domanda. Allora, da dove vogliamo partire? Perché c'è veramente tanta roba oggi, tante cose da cui discutere. Fra poco avremo un ospite sui Generis per parlare del divorzio di Veronica Lario. Ecco appunto, quindi mi dicevo, quello dobbiamo riservarlo sì, a lui. Ma, infatti ecco. Questo lo riserviamo dopo. Fine vita. Oh, questo Papa è veramente capace di strappi che nessuno poteva immaginare. Dicevo che oggi ho un po' sorriso leggendo, tutti dicono no, ma l'aveva già detto Pio XII. Sì, ma vi rendete Pio conto? Pio IX. No. Beh, comunque insomma è un passo avanti. Non è, questo lo sappiamo e non si può aspettare questo da lui, ma intanto un primo passo lo fa. Non è ancora né il sì, come è ovvio, al suicidio assistito, né tantomeno l'eutanasia, però e no all'accanimento terapeutico. Insomma, il Papa si muove, chi non si muove su questo è il Parlamento. Allora, ti segnalo invece su Repubblica la prima pagina su una storia incredibile, la marcia dei migranti a Cona, da Cona in marcia verso Venezia, 50 chilometri, sembra un'immagine di Odissea, c'è il pezzo di Silvia Giralucci praticamente a innescare questa sorta di rivolta inedita in Italia, che sta ovviamente stupendo tutti, se non altro per questo quadro biblico, veramente gente con i trolley sulla testa. È stata la scelta, erano alloggiati in una caserma, di ritirargli le stufette per motivi sì di preoccupazione sanitaria, ma questi morivano di freddo. Stiamo parlando di più di mille persone. Siamo un paese veramente attraversato dalla due fuori. Osservazioni. La prima è che hanno passato la notte, come scrive Repubblica, al riparo delle chiese offerte, messe a disposizione dal patriarca di Venezia. Fra i banchi. Ecco, dal patriarca, questo per capirci come siamo ancora un po' indietro con l'offerta delle strutture pubbliche adeguate a queste circostanze, sia pur d'emergenza. La seconda è che purtroppo sono convinto che questa loro iniziativa farà ulteriormente urlare politici e loro seguaci dicendo ma come osate dire che vi trattiamo da schiavi? Ecco, il giorno in cui riusciremo anche persino in vicinanza di una campagna elettorale a vedere che cosa c'è dietro davvero questa disperazione, invece che ridurla a proteste con la solita storia hanno più degli italiani a cui rubiamo i soldi per darli a loro, cosa che è il classico mantra che viene ripetuto, quel giorno forse risolveremo meglio sia i problemi degli italiani sia i problemi dei disperati che vengono da fuori. Allora, 800 24 00 24 per le vostre telefonate, i nostri centralini sono aperti, 349 238 6666 per le tante opinioni, poi ricordatevi sempre la segreteria per le comunicazioni epocali, esistenziali, poetiche, 02 tipo le 30 donazioni. 22 4492, sì, domani serve ma una poesia sul un divorzio, il nostro amico rimatore oggi non c'ha consegnato la poesia sulla separazione di Berlusconi. Questo è molto grave. Spero che domani si possa rimediare. Consentimi, oggi c'era un segno, perché oggi è Santa Elisabetta d'Ungheria e doveva saperlo Veronica, perché Elisabetta la retta non ti spetta, questo è il punto. Ma non è possibile, io ti cito Whitman e tu mi tiri fuori queste cose da veramente saggezza popolare. No, il calendario di Frate Indovino dell'oratorio, te l'ho detto, Frate Indovino è l'unico calendario che mi ammalda nella sua fede, che, anzi era il calendario di Frate Malachia, e che incombeva sulla nostra cucina, e io ogni volta dicevo: mamma mia, appena vado via metto un calendario con le dette. Mia madre me lo sentì dire, meglio che io non dica ai nostri ascoltatori all'epoca come davvero, in cosa consisteva. Conosci tutti i santi, tutti a memoria? Ma insomma, ci si crede o meno? E mia madre, e questo poi ho capito dopo, ci sono venuto a patti dopo, anni dopo essere andato via, ha una fede crollabile, una fede popolare, il culto dei santi è radicatissimo. È vero che noi avevamo il calendario dei santi e nostra madre diceva: oggi è vero, non è che me lo invento, è proprio così. Infatti mi è rimasto nella vita di guardare oggi, ci sono solo due quotidiani su cui è rimasta questa cosa in prima pagina, che sono da una parte Il Messaggero e dall'altra L'Avvenire. Un tempo non era così, ma nell'Italia in cui sono cresciuto io con mia madre, che aveva questa fede cristallina e limpida e non aveva mai dubbi su questo, sì, effettivamente cercava di inculcarci col calendario questa cosa. Allora, anche a casa di Valerio, il nostro valente regista, c'era il calendario di Frate Malachia. Vedi, siete uniti nella storia fra Roma e Milano da questa vicenda, però voglio elevare il livello, voglio elevare. Hai ragione. Leonardo batte tutti i record. Ma sono Leonardo, io che porto la cultura. Leonardo. È stato battuto il Salvatore Mundi alla Christie's di New York, 450 milioni di euro. È l'opera d'arte più costosa della storia, e poi qualcuno dice che con la cultura non si mangia. Ma Leonardo, sottolineo per la quarta volta, aderisco da puro così, sarà un falso, dici, no? Io lo sai che c'è chi lo sostiene e che ha anche buoni argomenti a mio giudizio, perché la storia per esempio della mancata rappresentazione del riflesso ottico nella sfera del Salvatore Mundi, è una cosa che per chi è appassionato di pittura leonardesca non ha proprio un peso irrilevante nell'osservare, ma almeno quel particolare lì difficile credere che l'abbia potuto dipingere lui. Però insomma, detto questo, quello che conta è quello che hai detto tu, che è il rilievo e l'entità del... A me piace l'idea. Nel 58 fu comprato per 45 sterline, adesso vale 450 milioni di euro. E io mi auguro solo che non sia un contribuente italiano, se no povero lui, il fisco. Allora, prima del meteo e del nostro ospite, dammi l'aggiornamento su Balzellopoli, perché non ti sarà sfuggito che c'è una sovratassazione sulle sigarette, in questo caso quelle elettroniche. Capito. In cui non si tassa più, attenzione perché è complicato, il principio organico contenuto nella soluzione che è dentro l'erogatore, ma adesso sarà su tutto il pacchetto, quindi praticamente crescerà l'imposta e viene vietata la vendita online. Come fanno a fermare la vendita online delle sigarette elettroniche? Totale, sperano di incassare 500 milioni di euro in più. Sempre quello, sempre un Leonardo è la vita. Ma e le finanze in Italia, cioè 600 milioni in più dal tabacco, 500 milioni in più. No, non solo dal tabacco, dalla sigaretta elettronica. Sì, ti sto dicendo, 600 milioni in più sono il tabacco con la scuola del cancro, in realtà per avere più soldi per il contratto dipendente. 500 milioni in più per le sigarette elettroniche. E la cosa che hai descritto, ma è la dimostrazione, di è la psicopatia online di un isterico. Perché l'hai descritta esattamente, cioè intervengono sui principi attivi, sul no alla vendita online, eccetera eccetera. La sete di entrate è una malattia, come tutte le dipendenze. Il vero drogato, molto più del fumatore e molto più del consumatore di sigarette elettroniche, che si fa molto meno male a sé e agli altri, è lo Stato tassatore. Curiamolo, leviamogli il metadone. Ma ti faccio una domanda banale: se fosse solo, come dire, una copertura fake, perché bravo, non credo che pensino veramente, allora, che riescono a bloccare Amazon, che riescono a bloccare la rete, che riescono a fermare improvvisamente, arriva in Italia e non si può più vendere online. Allora, quindi il compito di un governo è quello di dire, di fronte a coperture così fantasiose, primo, se sono idee sue, farsele passare; secondo, se vengono al Parlamento e sono, come hai detto tu, altre disperazioni per dire: vabbè, inventiamoci una cosa pur di far passare per la copertura del provvedimento di spesa, sarebbe quello di dire, di fischiare la il cartellino giallo e poi il cartellino rosso. Temo che in Parlamento ci vorrebbe, da questo punto di vista, questa mitica bellissima storia che sicuramente hai visto, del nuovo arbitro di 12 anni, Damiano Bellini, bello, che esordisce sui campi di calcio. Credo che lui aggiungerebbe saggezza sia ai vertici della Federcalcio ma sia al Parlamento sulle finte coperture. Lui a 12 anni, secondo me, io mi fiderei di più. Allora, a fuoco il portone del circolo del PD di Ostia, e Ostia oggi è veramente l'ultima ora, è prontamente arrivata, e ce la consegno alla redazione con grande tempestività. Ostia oggi è veramente una fotografia dell'Italia, e c'è un'invettiva: Oscar guadagna 450 milioni l'anno, le deve pagare le tasse. Intanto le paga le tasse, le paghiamo le tasse, e poi purtroppo non guadagna 450 milioni, però li vale tutti quell'uomo, anche ora che si sta soffiando il naso. Però avete capito, la vostra prima reazione di fronte al prezzo di Leonardo è: tassiamolo. Ma vedete che lo Stato vi ha corrotto l'anima, cioè, ma io mi complimento con lo Stato, perché i grandi corruttori a me fanno, come a tutti, orrore, però quando arrivano a vette di genialità con le loro metodologie truffaldine, e a volte sapete cos'è, la truffa è una specie di realizzazione di forme di intelligenza perverse. In questo lo Stato, diciamo, ci dà molte lezioni. 800 24 00 24, c'è Gianluca da Vicenza, arriverà fra poco Oliviero Toscani, pubblicità. Mattino. Allora, il bel volto della nostra squadra possente qui davanti a me, e grazie a loro siamo sempre connessi, siamo in contatto con il mondo, e c'è un ascoltatore che ci vuole parlare subito della marcia di Venezia, su Venezia. Luca da Vicenza. Sì, pronto, ciao a tutti. Sì. Intanto buongiorno Luca, buongiorno Oscar. No, volevo ribadire solo che questa comunque situazione proprio mette in luce quanto sia palese il fatto che queste associazioni ci mangiano, e quindi non per tutti i soldi che prendono comunque non creano dei servizi. È un po' proprio la doppia faccia dello Stato: noi paghiamo un sacco e non diamo servizi, e queste associazioni in uguale maniera prendono un sacco di soldi e non danno servizi a queste persone, che comunque, se volessero dare più visibilità, essendo più di 1000 se non ho capito male, dovrebbero essere come minimo la metà delle persone che si muovono in questa marcia, non solo in 190 rotti. Bene, secondo me. Allora, Luca da Vicenza pone l'accento sulle carenze dello Stato. Silvia Giralucci, che ha firmato il pezzo su Repubblica, ci dà l'ultimo aggiornamento su questa vicenda. Silvia, è una cosa inedita per il Veneto, per l'Italia, una marcia di protesta di queste proporzioni? Sì, è inedito che escano dalla base. In realtà le proteste nell'ultimo anno e mezzo sono state almeno 8-9, da quelle che hanno raccontato ieri i migranti, del tutto inascoltate, e quindi hanno deciso di fare questa forma di darsi una visibilità marciando. Avrebbero benissimo potuto andare a Venezia con un pullman, ma vogliono farsi vedere. Quanto ci metteranno per arrivare, più o meno? Beh, la strada non sarebbe stata lunga tra Cona e Venezia, ma la strada più dritta è la statale Romea, che è una delle statali più pericolose d'Italia. Quindi la polizia li ha deviati, hanno passato una prima notte in due pullman, poi si sono accampati accanto alla chiesa di Codevigo. Inizialmente il sacerdote ha rifiutato di aprire le porte, poi con la mediazione della Caritas a tarda notte, fuori c'erano circa 0 gradi e il vento li ha fatti entrare. Ieri sono andati verso Mira per poi raggiungere Venezia attraverso la riviera del Brenta, ma di nuovo la polizia ha cercato di bloccarli, la tensione è anche salita. Ieri pomeriggio si sono temute cariche perché volevano farli tornare indietro, e adesso il patriarca di Venezia ha messo a disposizione 3 chiese con i relativi patronati tra Mira e le sue frazioni. Adesso c'è da vedere se da lì riprenderanno direttamente a Venezia, che è un tragitto che possono fare anche in un giorno, sono circa 20 chilometri, o se incontreranno altre difficoltà da parte della polizia, perché comunque sono tanti e si muovono anche con tante masserizie, borse, biciclette cariche di coperte. Incredibile. Mamma mia, è un'immagine che non vorremmo vedere. Lorenzo Rotella è sempre pronto ad aggiornarci sulle ultime agenzie. Rachele vigila sui vostri umori. Oscar, volevi dire qualcosa? Sì, volevo approfittarne per fare una battuta su questa roba per me incomprensibile, a meno che non sia una totale dimostrazione di incomprensione di quello che votano in Parlamento, oppure sia, ohimè, un pessimo segnale politico. Questo voto, cioè il voto contrario che i grillini hanno espresso ieri al Parlamento europeo e l'astensione della Lega, ieri che il Parlamento europeo votava l'abrogazione dell'articolo della Convenzione di Dublino che fa carico al paese di primo sbarco di occuparsi dei profughi, cioè l'articolo che l'Italia giustamente chiede da anni di modificare perché è quello ovvio, che ha lasciato a noi la gestione invece della ripartizione automatica europea delle quote. E che fanno? I grillini votano contro, la Lega si astenga. Io due l'una, non hanno capito cosa votavano? No, vuol dire che vogliono far rimanere quella norma per protestare di più in Italia nella campagna elettorale. Quando si arriva a questo, secondo me, è un pessimo segno. Allora abbiamo con noi il mago dei dissacratori, il re della comunicazione pubblicitaria e non solo, l'artista delle tante trasgressioni, Oliviero Toscani. Buongiorno. Buongiorno. Aveva appena regalato, credo, no, o consegnato al MDP, alla sinistra, regalato senza neanche pagare un euro, un logo geniale che era un Max scritto dentro, inscritto dentro un cerchio che avrebbe dovuto essere il nuovo simbolo della sinistra. Era una specie di divertissement, un calembour, diciamo. Da un lato alludeva al nome del nume tutelare di quel partito, Massimo D'Alema, dall'altro al Max, il maximum, il massimo che si può ottenere sui diritti, su tutto. Non lo hanno voluto, Oliviero. No, non lo devo assolutamente a Massimo D'Alema, perché quando penso a Massimo D'Alema non penso mai a Massimo D'Alema, ma se voglio essere felice, quindi non pensavo assolutamente a lui. Quindi io Max, perché Max così è, è una bella parola per un partito politico giorno d'oggi, visto che tutti sono al minimo. Secondo te la gente avrebbe detto: sono andato a votare Max, come appunto, se fosse un amico, no? Invece andiamo tutti a votare strecciando il naso, no? Così. Certo. Andiamo a votare tutti la mediocrità. Certo, no? Olivieri, dimostrano due cose nella loro reazione, perché hanno avuto una reazione immediata che dimostra, da una parte, che vivono nell'incubo di quel D'Alema lì. Secondo, ma che spazio c'è nella politica per chi è del tutto privo di spirito di ironia? Però non si scherza, la politica è sacralità. A mio momento è stata una reazione a tutti, fortuna, bello, però D'Alema, come se fosse D'Alema fosse lì con la pistola puntata. Ma in fondo era anche per smitizzare, per ma certo, D'Alema, no? Appunto, vabbè. Comunque è fatto, non mi interessano tanto. Allora, ti abbiamo chiamato. Quelle cose che uno fa così, certo, per dire, forse posso aiutare a fare qualcosa. In questo caso anche come esperto di matrimoni, per chiederti il tuo parere non retorico, non scontato, su questa sentenza che riguarda Veronica Lario. Che dici? Io sono molto preoccupato per lei adesso. Ma come? Sono preoccupato, come si fa adesso? Se sono 1.400.000 euro. Sei pronto, mese, sei pronto alla colletta? Perché bisognerà fare una colletta. No, dico, bisogna dire a Veronica Lario che un piatto di zuppa di minestra, una zuppa a casa mia tutte le sere c'è, se vuole. No, ma perché inveire contro una donna? Ma non stai invento, sì, dai. Sì, beh, no, lo scherno, una zuppa. Dico, Toscani offre una zuppa so alla Lario. No, dico, io adesso non so se è ingiusto questo o era ingiusto prima. Insomma, qualcosa qui non funziona. Oh, questo per esempio mi sembra una considerazione molto saggia, Luca. Delle due l'una, cioè non si può passare da un modo all'altro senza che almeno uno dei due non sia un problema. Se era giusto prima, adesso è ingiusto. Se è giusto adesso, prima è una follia. Ecco, Ecco. Ma questo non c'è dubbio. Forse è vera la prima. E qual è il giusto equilibrio? Perché oggi alcune avvocate che conoscono la materia, come la Bernardini De Pace, dice attenzione perché il diritto al tenore di vita, che poi è, sapete, la causa di tante traversie per i padri separati, è un diritto che vi fa ridere nel caso di Veronica Lario, ma diventa una cosa seria per tante altre donne che hanno ovviamente meno disponibilità, meno capitali e meno strumenti. Il tenore di vita, io ho 1.400.000, per una persona c'è un problema per il tenore di vita così, insomma, per quanto non me ne intendo io con le cifre. Cosa fa una con 1.400.000 al mese? Pesi spese. Ho visto che c'è un complicato itinerario, viaggiava continuamente, tropici, sì, però Luca, parliamoci chiaro, la questione... Ma dai, infatti io sono la penso come Oliviero Toscani, cioè quando stiamo in presenza di cose di quel genere... 1.400.000 al mese vuol dire circa 5 euro al secondo. 5 euro al secondo? Sono matematico. Che è insomma è un bel andare. Allora, ma quando si tratta le cifre così non è possibile. La famosa coerenza del reddito rispetto a prima fa a pugni. Il principio del realismo è... che a quel punto l'assegno divorzile, stiamo parlando di questo, non a quello di separazione, l'assegno divorzile, ma deve essere proporzionato sì a dare una mano al coniuge più debole, ma esaminando anche i limiti della proporzionatezza. Cioè qui stiamo parlando di cifre che non hanno nessun corrispettivo né con la vita reale degli italiani, ma né col principio di dover difendere una coerenza di reddito. Quindi io credo che la decisione giusta sia quella di ridurre. C'è un altro problema. Veronica Lario è una persona serissima, fatto la moglie Berlusconi, ma come mestiere ha fatto solamente la moglie Berlusconi, non è che l'abbia aiutato nel suo lavoro Mediaset dove Berlusconi guadagna i soldi, non è che è stato una sua, non so, un braccio destro sul lavoro, sul decisionale, queste robe qua, non credo almeno. Era attrice però, attrice. Sì, vabbè, ma ci sono tante brave attrici che non cioè forse con Fallonieri, forse capisco, capisci? Ho capito. Migliore, ma fa l'attrice, la moglie, insomma, veramente un bel investimento ha fatto. Va bene, allora zuppa offerta da Oliviero Toscani. E in casa mia un piatto di minestra c'è sempre, anche per te. Anche per me, cioè per tutti. Che non riesce a fare un programma televisivo decente, prima o poi lo faremo da casa mia. Io c'ho un bel citofono qui a casa mia. Col video citofono di Toscani. Mannaggia. Sì. Allora Giancarlo, resta lì che c'è Giancarlo da Torino, forse vuole dire qualcosa anche a te. Giancarlo, sì. Buongiorno Cinese. Buongiorno. No, anche Giannino saluti. Toscani anche non Giannino. Giannino. Ma sì. No, ma era implicito. Lei però mi è un po' più simpatico. Ah, bene, giusto. Le dico la verità, lei mi piace di più anche rispetto a Milan. Oh, vabbè, no, questo no, assolutamente no. No, veramente, ha un modo di fare che è più umano, è più simpatico, insomma, lei mi piace di più. Difatti quando posso al mattino, prima di andare a lavorare, l'ascolto. Bene, allora cosa voleva dire? Ma volevo dire semplicemente questo, che hanno tutta la ragione quei poveretti a dimostrare la loro, come si chiama, la loro, come si dice, disperazione, la loro situazione, la difficoltà a Cona e a marciare verso Venezia. Però la colpa è anche un po' dello Stato, che comunque prende tutti senza una minima regola, promette quello che non può mantenere. Poi questa gente qui, purtroppo, li vedo io, abbandonati a se stessi, chi fa l'elemosina, chi raccoglie di qua, chi raccoglie di là. Ma non è una situazione da paese civile. Prendiamone di meno e quei pochi che prendiamo, meno che ne prendiamo, gli diamo la lingua. Cerchiamo di inserirli, cerchiamo di acculturarli come va fatto, perché prendere tutti per far vedere al mondo che siamo bravi, per far vedere al Papa che siamo qui, poi comunque una buona parte si perdono, sono persi, non hanno niente, lavoro non ce n'è, casa non ce n'è, integrazione non ce n'è. È assurdo questo. Ci devono essere delle regole, dire boh, ne prendiamo un certo numero, fermare le ONG, fermare tutta le hanno fermate, le hanno fermate. È affermato, infatti sono diminuiti molto gli sbarchi. Sì, cioè, ma continua a far venire troppa gente, illudiamo, gli raccontiamo un sacco di balle, questi vengono qua e non hanno niente, io li vedo, io abito a Torino. Ma per carità, siamo d'accordo, però voglio dire, quello che lei per troppi anni in Italia non ha fatto, con Minniti l'ha fatto e il risultato sì, è che la proporzione è molto scesa. Oh, come vede, appunto, questo sto dicendo. Bene, ci fermiamo solo un attimo per la pubblicità, voglio sentire Oliviero Toscani che su questo ha messo in piedi una scuola. Pubblicità. 24 mattino. Allora, rieccoci in diretta. Un ascoltatore vuole intervenire. Oliviero, un racconta che cosa state facendo tornando insieme tu e Benetton, e poi voglio portarti sul tema della tassa sulle sigarette, che è interessante. Vabbè, a parte la roba Benetton, io trovo che questa roba sono troppi, bisogna dire la nostra fortuna è che noi non siamo capaci di organizzarci. Guardate in Germania, ecco, noi abbiamo 2 milioni di arrivi dal 2015 al 2017. Hanno capito che questo sarà il futuro, dobbiamo gestire, perché questo sarà il nostro futuro, se no falliamo tutti. Voi non sapete quanta gente intelligente arriva, invece di certi beceri che sono contrari. Voi non vi rendete conto, pensate che arrivano solamente i delinquenti, no, arriva anche tanta gente con tanta voglia, con tanto coraggio e tanta intelligenza. Dove fate questa bisogno. Scuola con Benetton? No, non è nessuna scuola, è un centro. È un centro. È il centro della fabbrica che fondai nel 90, di ricerca della comunicazione moderna, e cerchiamo fra di loro gente che ci porta delle nuovi modi di vedere, di parlare. Allora, signori, c'è un genocidio che va, non so se ci rendiamo conto. Ci sarà un processo di Norimberga un giorno, i loro figli ci saranno italiani, perché saranno. È inarrestabile questo flusso. È inutile che noi ci facciamo i finti tonti, dire adesso fermiamo, decidiamo. Ma cosa? Ma il mondo è sempre stato così. Allora, i loro figli un giorno diranno: guardate come questi qui, questi tagliotti qui, come ci hanno trattato. Ma anche con tanta generosità. Anche tanta generosità, bene. Ma guarda, è chiaro, non erano tutti nazisti durante il processo di Norimberga. Per fortuna c'è stato processo. No, ma guardate questi qui come ci hanno trattati, con i fili spinati, con la polizia, i preti non aprivano le porte. E in questo caso le hanno aperte. Marco da Bologna. Sì, buongiorno, Zannino. Sì, volevo spiegare una cosa a Zannino. Dica. Volevo dire che le sigarette elettroniche sono tassate di più rispetto alle sigarette normali, perché la salute è un lusso. La salute è un lusso? In che senso? Sì, è un paradosso. Ah, il paradosso, quello di cui parlavamo ieri, che infatti l'insensibilità di questi aumenti avviene malgrado sia, come evidente, un prodotto enormemente meno nocivo. Ma è ovvio. Lo Stato tassa il lusso. Lo Stato, posso dirle una cosa brutale, questa l'ho scritta già da anni, hanno detto che forse mi querelavano, poi non mi hanno querelato. In altre parole, l'aumento brutale attraverso cui è stata messa nell'angolo l'intera filiera che si stava creando sulle sigarette elettroniche italiane, è perché lo Stato vuole uccidere la concorrenza sui tabacchi. Da una parte vi dice che è etico ed è preoccupato che vi fa male, ma dall'altro i miliardi che ci prende sopra vuole continuare a prenderseli, anzi vuole prendersene di più. Quindi in questo caso ha agito intervenendo a piedi uniti contro un prodotto che era, del resto, dal punto di vista salute, come dice lei, ma il cui effetto poteva essere quello di diminuire il più delle entrate che prende sui tabacchi. Ci voglio credere, e io invece, Oscar, ci credo, perché le strategie, no, ma tu non ci vuoi credere, non capisco perché. Lo Stato, pensa cosa ha fatto sui giochi. Non è così sofisticato. Assolutamente sì, nei giochi, in tutti questi anni, tutte le volte che è entrato nel settore dei giochi nuovi, quelli digitali, ha adottato aliquote enormemente più basse di quelle che riservava laddove oramai era monopolista da anni sui giochi tradizionali vecchi, e ha graduato nel tempo l'aliquota man mano che controllava fette sempre di più attraverso il gioco legale, anche di quelli avanzati, e l'aliquota a quel punto sale, quindi si comporta come un perfetto ottimizzatore della sua strategia di rapina fiscale. Oliviero, c'è qualcuno che dice che tutti quei simboli di morte che la legge impone sui pacchetti alla fine non ci respingano, ma addirittura siano un aggancio di seduzione. Ma questo lo dico, l'ho detto dall'inizio, è una gran stupidaggine. Una gran stupidaggine. Davvero? Non è seduzione, ma è così per mettere la coscienza a posto. Ecco, appunto. In realtà fanno ridere. Cioè, secondo te non c'è nessuno che viene disincentivato da nuoce gravemente alla salute? Bisognerebbe dire, quando sei a tavola tutti chic, scusate, disturbo se fumo, e nessuno dice no, vabbè, fumi. Ma se tu dici scusate, disturbo se scorreggio, allora capisci, la scorreggia fa molto meno male di una sigaretta, dobbiamo renderci conto, invece è bandito, certo. Si chiamano ipocrisie, disturbo se scorreggio. Marco da Milano. Marco, buongiorno. Buongiorno. Volevo dire, rispetto alla sentenza Berlusconi-Lario, sì, è chiaro che questo è un caso eccezionale, però può essere un buon inizio per rivedere tutti i casi ordinari di divorzio. No, no, ma questa è in base a una sentenza della Cassazione, infatti quella del caso Grilli-Lovenstein. Adesso il problema è che si attendono le sezioni riunite della Cassazione, perché una parte dei magistrati e una parte degli avvocati matrimonialisti sono insorti dicendo: beh, insomma, va bene abbandonare il criterio della costanza di reddito come se ci fosse il matrimonio perdurante, però dicono attenzione, perché così attenti a non occuparsi per niente della tutela del coniuge troppo debole, quindi sperano in una via di mezzo. Oliviero, su Twitter qualcuno dice: ma non è che c'è della misoginia contro la Lario in questa offerta di Toscani della zuppa, che sembra una cosa di sprezzo? Oh, se fosse un uomo avresti fatto la stessa battuta. Io farò, ma figuriamoci, noi uomini dobbiamo fare una classe. No, poi tu dalla parte di Berlusconi contro tutta questa misoginia contro i poveri coglioni uomini che devono, che non c'entrano niente con tutta questa storia, che devono sopportare tutta questa reazione. Una class action di autotutela. È molto convincente, però, quindi non hai negato. Ma dai, mettendo via 2 mesi da Mario, mettevi una fortuna nella quale può vivere tutta la vita. Bene, questo dai, mi sembra. No, dai, quindi insomma, è proprio su di lei. È un po' una questione di decenza, insomma, dai, è una decenza. Ecco, anche secondo me, quando si tratta di cifre così, abbiamo un po' di una cosa giusta, rispetto verso gli italiani comuni, per così dire. Appunto. No, ma il problema è che devi sapere che Telese è preoccupato, perché pensa che adesso Berlusconi, con i soldi che gli viene restituito, si ricompra il Milan, e Telese è preoccupato che poi Berlusconi così vince le elezioni, questo è il punto. No, invece c'è un'altra ipotesi che fa la verità, che Berlusconi ha avuto l'ultimo colpo di culo prima della campagna elettorale, perché quei 40 milioni che riprende indietro gli servono per la campagna elettorale. Non ci aveva pensato nessuno, dato lo stato drammatico delle casse di Forza Italia. Dice: l'ex moglie pagherà la campagna elettorale di Berlusconi 45 milioni di euro. Quale sarebbe, che slogan regaleresti a Berlusconi, Oliviero? Vai, facciamo un esperimento lampo. Dopo aver dato max per le Porsche, hai dato max a MDP, a Berlusconi, che simbolo, che slogan suggeriresti? Un parrucchino. No, vabbè, dai, parrucchino. Come no? Vabbè, ma è dispregiativo questo. Perché? No, perché? Il parrucchino, mette il simbolo del parrucchino. Un parrucca bellissimo, disegnato, così che vola. Che vola? Il parrucchino che vola. Ma invece magari, io... Magari riccio, biondo. Ma io la penso come Oliviero. Pensa, sarebbe un gesto di autoironia. La gente lo apprezzerebbe. Miscredenti. Ma non è vero. Non sui è capelli vero. Non si scherza. Sul parrucchino non si scherza. Ma ecco. Primo... Intelligente, come mai lavori con Luca Telese? Non so, capisco. Ce lo chiedono in tanti. Ma perché gli voglio bene. Gli voglio bene. Veniamo a fare il programma via citofono con te. Grazie, Oliviero. Torna presto. Ciao. 8:56. Oggi è venerdì. Domani si dorme. Ma ciao. Di che? Io domani sono in diretta. Ma che dici, mio Dio? L'ultimo pensiero, Oscar, 30 secondi. Morte allo status tassatore. Oggi non hai dato. Va. Ciao.